Credo sia proprio all'inizio, nelle prime righe della Meditatio Premiaris della Matesis Biceps di Juan Caramuel, che si racconta la storia di un tale che, sentendo una pendola battere quattro colpi, ne concludeva evidentemente che l'orologio era impazzito, visto che aveva suonato per quattro volte l'una. Il grande studioso secentesco, con quell'apologo, intendeva far capire come la mente umana, nel considerare le entità matematiche, ci metta molto di suo, nel senso che intellectus non reperit sed facit numeros, l'intelletto non trova i numeri ma li fa. È una scoperta che basta da sola a conferirgli una posizione di rispetto tra i matematici del suo tempo, a un livello paragonabile solo a quello di Leibniz, che infatti proprio da lui riprenderà un paio di decenni più tardi i fondamenti dell'aritmetica binaria. Ora non si può certo dire che quella brillante intuizione operativa sia entrata stabilmente a far parte del senso comune. Tuttavia ogni tanto si sentono delle affermazioni che la presuppongono. Così, in questi giorni di dibattito in tema di convivenze non matrimoniali, sarà capitato a tutti di sentire affermare in tono variamente solenne che il problema in discussione non riguardava che ne scampassero gli dèi i diritti delle coppie di fatto, ma quelli dei singoli individui che le coppie costituiscono. La precisazione, che è stata accolta a base del recente disegno di legge governativo, che è dedicato appunto ai diritti e doveri dei conviventi, non so, abbreviato chissà perché in DICO e non, come sarebbe più logico, in DIDOCO, ma questi sono piccoli misteri della politica, la precisazione, vi dicevo, è un po' ipocrita, perché serve solo a negare che una convivenza extramatrimoniale sia soggetto di diritto, ma sul piano logico è ineccepibile. E Caramuel, che era sì vescovo, ma non credo si occupasse di queste cose, avrebbe al massimo fatto notare come la decisione di considerare una coppia come un'unità indivisa o a scelta come l'aggregato di due entità è di natura puramente formale e non comporta differenze sul piano ontologico, il che significa che la differenza di trattamento pratico che si può applicare in un caso o nell'altro è di natura puramente arbitraria. Soltanto l'arbitrio, in effetti, determina le condizioni che quel decreto impone alle coppie di fatto perché i loro membri possano godere dei diritti che vi sono previsti. Non si capisce assolutamente sulla base di quali criteri si sia ritenuto opportuno richiedere un periodo di convivenza continua di almeno 9 anni perché scatti il diritto alla successione legittima, o di uno di 3 perché si determini l'obbligo dell'assistenza in caso di separazione, o di uno di chissà quanto ancora da definire per la reversibilità di eventuali pensioni. È difficile sfuggire all'impressione che si tratti di clausole in buona sostanza punitive, di un surplus di obbligazioni atte a far scontare agli interessati la supposta precarietà della loro unione, come un'ordalia da superare per dimostrare nei fatti la serietà di un impegno che lo Stato, in assenza delle sperimentate ritualità matrimoniali, non si sente di accettare per buono senza un adeguato periodo di prova, della volontà di far pagare il fio di una situazione poco canonica. Però in questo modo, nonostante la preoccupazione ossessiva di non dare vita a nessuna figura giuridica alternativa al matrimonio, e come la ministra Bindi, poveretta, ha ripetuto un numero spropositato di volte, senza riuscire a persuadere coloro che più di tutti voleva persuadere, si è finito per creare esattamente quella famiglia di serie B che tutti a parole volevano evitare. Alle coppie di fatto viene proposta in sostanza una convivenza subiudice, i cui comportamenti, perché producano effetti, dovranno essere debitamente monitorati e registrati, e poco conta se non sul piano del ridicolo che la relativa dichiarazione all'anagrafe sia contestuale ma non congiunta, come a dire che ciascuno degli interessati potrà o dovrà provvedervi in proprio, salvo l'obbligo di comunicarlo in forma ufficiale all'altro, che mi sembra proprio una trovata graziosa e tale da suscitare più equivoci e più contenziosi di quanti qualsiasi avvocato matrimonialista mai avrebbe potuto sognare. E il tutto in sostanza, in tutto in sostanza per perpetrare un'ingiustizia, perché di coppie possono essercene tanti tipi, naturalmente, ma di individui, rispetto al godimento dei diritti riconosciuti, ce n'è un tipo solo. Siamo tutti uguali da questo punto di vista. E il fatto che agli uni venga riconosciuto quello che agli altri viene negato rappresenta una violazione di quel principio di uguaglianza su cui dovrebbero fondarsi le società democratiche. Tanto che volete che sappiano d'uguaglianza gli adepti di una gerarchia?